Buonasera, benvenuti a tutti quanti. Ecco, con grande piacere è tornato qui in biblioteca da noi il professor Giorgio Dobrilla col suo nuovo libro Medicina e dintorni. Il sottotitolo non lo vorrei leggere perché cronaca, assurdità, buona e cattiva medicina, staminali, bioetica, testamento biologico, pubblicità ingannevole e politica sanitaria nell'analisi disincantata di un medico giornalista. Allora, qui è riassunto tutto, con il mio giudizio. Andiamo via. No, tutto quello che è anche la figura, la persona di Giorgio Dobrilla, che non solo è licenziato come medico, ha prestato la sua opera e il suo servizio a vantaggio della nostra comunità per tantissimi anni, ma continua a educarci al valore della salute e nello stesso tempo fa, a mio giudizio, un'educazione civica, perché i suoi articoli, i suoi interventi, le trasmissioni radiofoniche e i libri che scrive sono un buon contributo non solo alla nostra consapevolezza che la salute è un valore da preservare e da godere anche, ma diciamo che proprio fa educazione civica, ecco, questa è una cosa che mi ha sempre colpito e la ringrazio anche per questo. E poi un'altra cosa che apprezzo tantissimo e lo potete apprezzare anche in questo libro, come è già stato in altre occasioni, è un alto coefficiente di ironia che serve sempre per andare avanti nella vita. Ecco, io la ringrazio, so che questa sera ci saranno anche la presentazione verrà accompagnata da delle immagini che aiuta a trasmettere meglio il messaggio. Il libro l'abbiamo in biblioteca, ma è anche qui a disposizione eventualmente per chi volesse acquistarne qualche copia. Vi comunico anche la prossima settimana, l'11 di aprile, abbiamo l'appuntamento con la memorialistica. Cambieremo settore completamente, sarà la presentazione del libro di Anna Maria Rond, che è un suo diario inedito. Professore, la ringrazio. Grazie e ci do la parola. Grazie. Buonasera a tutti, sono io che ringrazio la signora Trevisan, oltre a voi che siete venuti, e effettivamente sottolineo che quanto ha detto circa le mie intenzioni, poi bisogna vedere se ci sono riuscito, corrisponde al vero. Vediamo se riesco a funzionare questo aggeggio. Questo è il libro, vi ha già detto di che cosa si compone, e vedete che qui non funziona più il laser, non fa niente, ripropone il fatto che non è un libro monotematico su un argomento specifico, ma che è una raccolta di argomenti, di tematiche diverse, principalmente la rubrica settimanale o alcuni redazionali fatti su invito del direttore del giornale, e che ho riunito volutamente, per cui non si presta a essere commentato in maniera lineare, ma dato che si occupa di vari argomenti l'ho spezzettato in varia guisa a seconda dei distretti più interessanti, che riguardano sempre o la sanità direttamente o i dintorni piuttosto problematici della sanità. Vedete la nostra padrona di casa, che è in perfetta sintonia con lo spirito del libro, e ho ripreso questa intervista sua fatta dal giornalista Marco Lizza recentemente, 21 novembre 2010, in cui la signora Trevisan dice: organizziamo incontri con autori o dibattiti una volta a settimana, in modo che chi viene a sentirli sia poi invogliato ad approfondire gli argomenti. Ed è esattamente l'intento di questa raccolta di articoli. Medicina convenzionale, scienza e ricerca occupano la prima parte di questa chiacchierata. Questo è un problema banale, ma è un problema che anche nel mio esercizio professionale mi trovo spesso a essere interrogato. Il problema della lingua, gola, lingua brutta, qualche volta è brutta, qualche volta non è brutta e uno ritiene che sia brutta. Vedete qui i vari tipi più principali, l'era villosa, l'impagnata, la carta geografica, l'antibiotici, il mughetto da candida, e qui si vede forse male per l'illuminazione, la lingua piena di afte. sono situazioni che spesso preoccupano il paziente, che non hanno qualche volta, non danno luogo a nessun sintomo, qualche volta a un alito cattivo che potrebbe essere a prescindere dalla lingua brutta, qualche volta danno un gusto alterato, soprattutto dopo una virosi importante degli aerei superiori, uno può restare senza gusto e non sente più neanche gli odori. Un cotton imbevuto di formalina che farebbe rizzare qualsiasi persona può essere infilato nella narice di uno che ha avuto questa virosi e non sente assolutamente niente. E poi, soprattutto anche quando non c'è niente, è motivo di ansia e di allarme. Le cause, qualche volta sono note, molte volte no, poche fibre, scarsa igiene, sempre meno nei nostri paesi, ma in paesi meno ricchi di noi, fumo e alcol, soprattutto mescolati in viene, la presenza di scarlatina, altre. Il problema terapeutico, visto che un cenno lo dobbiamo fare, è molto banale. Se c'è una causa accertata la si rimuove, se c'è un mughetto, una candidosi di altro tipo, da candida, si userà l'antifungino. È consigliabile sempre un abbondante introito di liquidi perché diluisce la densità della patina e come vedete qui ci sono degli spazzolini apposito non solo per lavarsi i denti ma per spazzolarsi fisicamente la lingua. Frutta e verdura dure che hanno lo stesso significato dello spazzolino, relax, ma è facile dire a uno che non è relax, stia sereno, non sia nervoso. Il gel con aglio, lo vedete promozionato in questi giorni in televisione, questa roba che va lì, copre l'afta, non ha nessuna rilevanza clinica naturalmente. E poi c'è questa curiosità, qui interviene il giornalista più che il medico, terapia esotica del dottor Murtagh, è un australiano, che consiglia la seguente terapia. 8 pezzetti di ananas succhiati sotto la lingua, poi masticati 2 volte al giorno per 10 giorni. Lui è sicuro che va via la lingua brutta. Non c'è nessun studio che lo avalla, se volete provare, se l'ananas vi piace lo provate. Comunque quello che conta è che il fegato non c'entra assolutamente niente, ferro e vitamine non sono quasi mai necessari, anche se vengono regolarmente prescritti. Special per i golosi. La cioccolata fa bene o male? Questo ha fatto la felicità del mio amico Franco, non dico il cognome per confidenza. Il teobroma cacao è ricco di antiossidanti, adesso ci farò una capoccia così con questi antiossidanti. I nostri eventi metabolici portano a un logorio cellulare della funzione cellulare con la maggiore concentrazione di radicali liberi che sarebbero tossici e in parte responsabili anche del nostro invecchiare. Bene. Si è visto da qualche studio che la cioccolata portava a un blocco di questi radicali liberi. Ci sono dal 65 al 2005, quindi la bellezza di 40 anni, questo vi dice che tante volte la quantità è semplicemente zavorra, sono stati fatti 400 studi per valutarne l'efficacia contro i radicali liberi, sul rischio cardiovascolare, quindi morte per ictus o infarto. Solo 237 di questi 400 erano minimamente attendibili e dimostrerebbero che il rischio è diminuito del 20%. Allora il cittadino sprovveduto è indifeso perché fa un altro lavoro e dice: mangio tanta cioccolata per non morire di infarto oppure no? Si deve ricordare che la quantità necessaria negli studi non è ben precisata e varia da 12 a 100 grammi al giorno, che con un apporto calorico di 100 grammi di cioccolata si introduce una pasta asciutta ben condita al giorno, che il rischio di sovrappeso e obesità che consegue questo surplus calorico avrà conseguenze relative e quindi inoltre è sicuramente dimostrato che con la cipolla il cioccolato è uno dei più grandi stimolatori del flusso gastroesofageo. Quindi accontentarsi che piaccia, ma non per proteggere il cuore e magari riducendo il mangiarne 2 al giorno. Altra cosa che compare tra la medicina e il giornalismo è l'efficacia dell'epatite del caffè nel trattamento dell'epatite da virus C. Voi sapete che l'epatite da virus A si autorisolve spontaneamente in 30 giorni anche se arricchito tonnellate di industrie farmaceutici con farmaci inutili, che l'epatite di tipo B ha tendenza maggiore a cronicizzare, l'epatite C ha tendenza maggiore a cronicizzare e anche fa elevare di un certo grado il rischio di un'associazione con cancro epatico. Farmaci spesso sono utili, ma manca un vaccino specifico, quindi non si può eradicare al momento questa epatite. Rischio di cronicizzazione è dimostrato che si riduce col caffè. Associazione inversa tra consumo di caffè e progressione del danno dimostrata. La protezione massima del 50%, quindi significativa, con più di 3 tazze di caffè al giorno, largamente superata da molti concittadini. Il tipo di caffè e il grado iniziale sembrano irrilevanti, l'effetto legato ha una modulazione dell'insulina. Il problema però, quindi se fosse una riduzione del 50%, così mi faccio 3 caffè al giorno e riduco del 50% la gravità del paziente. Lo studio è però osservazionale, gli studi, senza che vi annoi, si dividono, sono basati sull'osservazione di quello che è successo o di quello che succederà, o sono legati all'esperienza che io metto in atto direttamente a un certo momento. Gli osservazionali sono molto più fragili degli sperimentali. Quindi questo intanto è uno studio osservazionale. Attendere conferme prima di curarsi al bar, eccesso di caffè sospettato in passato di favorire il cancro pancreatico, bere caffè anche questa volta se piace, ma non come terapia dell'epatite C. Quindi a parte la cultura generale che uno si può leggere, ma non lasciamoci influenzare da promozioni di questo tipo. Dramma che tutti voi conoscete benissimo, il dramma dei bugiardini. Prima sono scritti esattamente così, bisogna la lente di ingrandimento per leggerli in generale. Ma se andate a vedere una comunicazione di una delle più importanti riviste del mondo, Annals of Internal Medicine del 2006, sono comprensibili solo dal 38% delle persone con poca cultura, dal 48% delle persone di media cultura, dal 75% dei laureati, SIC. Anche quello con laurea, 25% capisce un tubo di quel che sta scritto sul bugiardino. Questo comporta una scadente compliance, come ho avuto modo di dire altre volte, la compliance è l'aderenza, la correttezza con cui il paziente segue per tempi, dosi e durate le raccomandazioni del medico. Uno meno capisce, meno seguirà fedelmente la cura, con grave danno, perché famoso aforisma, le medicine non fanno niente se non vengono prese, e se uno ha una scadente compliance non le prende. Che fare? Sono essenziali le spiegazioni del dottore se c'è un buon rapporto medico-paziente. So che spesso non c'è, ma teoricamente questo è un punto centrale. Dite farmaceutica, deve capire chi legge, non chi scrive. Enti regolatori e politici devono migliorare e regolamentare i bugiardini e le informazioni dirette ai pazienti. Informazione diretta ai pazienti che diventa sempre più pressante. Perché o in rete, o sui placati, o sui poster, o direttamente a casa, o in farmacia addirittura con dei pliant buttati lì. Anche questo ha all'Internal Medicine. Aspirina. Un problema pratico che qualcuno di voi certamente avrà anche personalmente, quando si supera i 60-70 anni, quindi gente della mia età, l'aspirinetta viene spesso usata come antiaggregante piastrinico, che non è un effetto primario dell'aspirina. Era un effetto collaterale dell'aspirina, ma collaterale non significa negativo, collaterale può essere negativo o positivo. In questo caso l'aspirina ha un effetto collaterale positivo, perché a parte la sua azione antipiretica e antinfiammatoria, diminuisce l'aggregazione del piastrino e quindi profilarsi nei confronti dell'ictus e dell'infarto cardiaco. È raccomandabile in prevenzione secondaria, e così viene fatta, cioè dopo un evento, dopo un ictus, dopo l'infarto. Il problema era, un po' per pressione farmaceutica e un po' per una speranza istintiva in noi, e se la prendessi anche se non ho avuto un infarto, se non ho avuto un ictus, potrei addirittura prevenire il primo episodio. Bene, la dimostrazione non conforta questa ipotesi e comporta invece il rischio di fare per conto proprio questo tipo di assunzione. Meta-analisi, che vuol dire un'analisi complessiva in cui si valuta qualità, dimensione dello studio, eccetera, su quasi 4.000 pazienti, in base a un certo indice di risalto, metà sono trattati con aspirina a basso dosaggio e metà no. Monitoraggio per 8 anni. Allora, nei trattati con 100 mg al giorno, che di solito è la posologia standard dell'aspirinetta, e i non trattati. Nei trattati come prevenzione primaria e si sono registrati il 10,8% dell'infarto fatale e non fatale e di ictus cerebrale, e nei non trattati si è registrata analoga percentuale. Il che significa che se noi prendiamo l'aspirinetta come prevenzione primaria in generale, quel caso singolo può anche essere fatto, ma in generale non facciamo che aumentare il rischio emorragico senza avere nessun beneficio del rischio trombotico. Critiche poi sono venute anche da European Society Cardiology, che dice, beh, in fin di conti sono stati fatti in Scozia, gli scozzesi non sono gli altoatesini, non sono i lampedusani, eccetera. Altra cosa di cui siamo corresponsabili tutti, medici e pazienti, perché vogliamo che ogni disturbo abbia la terapia pronta e che ci vada via subito. La pazienza non c'è, il buon senso non c'è. Il medico stesso accondiscende spesso per accontentare il paziente sollecita spesso per qualsiasi cazzatina, scusate il termine, di avere una terapia antibiotica. Dal 1940 la produzione di antibiotici in crescita esponenziale. L'azione degli antibiotici, ve lo ricordo, può essere semplicemente quella di frenare lo sviluppo batteriostatico, quella di uccidere fisicamente il batterio. La resistenza si crea quando la popolazione generale di microbi è a contatto con l'antibiotico che gli diamo. Ma è una resistenza perfida, perché non soltanto viene acquisita da quella sottopopolazione di microbi, ma viene trasmessa ereditariamente ai figli di questi microbi, che daranno luogo a una popolazione di microbi resistenti. Per cui più prendiamo antibiotico, più aumenta la resistenza. Qual è l'impatto pratico? Grandissimo e sottovalutato. Decessi per stafilococco aureo resistenti alla meticillina nel 93 erano 50, nel 2006, sono pochi anni dopo, 1600. C'è sempre necessità di nuovi antibiotici ai quali non siano abituati i microbi. Ma cosa succede? Che il consumo è in crescita esponenziale, ma le case farmaceutiche sono in calo esponenziale nella fase, perché non rendono gli antibiotici. L'antibiotico o viene diffuso in maniera truffaldina e tutti lo prendono anche per i calli dell'alluce, oppure non rendono perché la malattia è breve, la tossite guarisce in 7 giorni, l'industria farmaceutica, piattolico, micifito, ha bisogno di farmaci che durano anni. Quindi c'è un calo progressivo di impegno industriale nel fare antibiotici e diventa sempre più possibile l'uso non di antibiotici, ma di probiotici, perché questi piattolico, micifico, per cui si dice con fermenti lattici ad alta concentrazione che sarebbero i microbi buoni, noi colpiremo e freneremo i microbi cattivi. Per cui le conclusioni pratiche. Antibiotici solo se sono necessari, ribadisco cosa che sapete tutti, che i virus sono assolutamente insensibili all'antibiotico e tutti con la virosi influenzale prendono antibiotici. Completare comunque la cura per non far calare la compliance è l'uso di probiotici da un punto di vista concettuale molto interessante, ma non è ancora assolutamente dimostrato da nessuno studio convincente che così è. Poi siamo diventati tutti PC dipendenti, almeno la generazione più, ma adesso anche la generazione più anziana si diletta di queste cose. Troviamo tutto, è come un libro aperto, troviamo consigli importanti, informazioni culturali, ma troviamo anche zavorra spaventosa. E naturalmente, essendo un mezzo di promozione importante, l'ha utilizzato il presidente Barack Obama per diventare presidente, ha fatto molto sforzo di promozione in rete per sovvertire lui nero la massa di votanti bianchi, e quindi figuratevi se l'industria farmaceutica non si pregia di fare. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha trovato che farmaci falsi, cioè proprio che non sono quello che dicono di essere, oscilla tra l'1 e il 30% nei paesi sviluppati, nel 70% nei paesi sviluppati anche per condizioni come la malaria, che interessa milioni di persone, e che se tu non prendi l'antimalario perché è falso, comporta milioni di morti. Non so cosa è successo. Il computer è attualmente in uso, è stato bloccato. Poi si è sbloccato solo da Notebook Giorgio o da un amministratore. Okay. Questi test di intelligenza mi angosciano. Devi svelare la pagina. 2-1-3. Allora, per chi avesse questo tipo di tentazione, naturalmente dove pesca la promozione diretta? In farmaci di grande appeal, e quindi antiobesità, la pomatina che si mette di notte per l'uomo tagliare la pancetta durante la notte, l'anticolesterolo, l'antistress, l'EPO, anabolizzanti, integratori stimolanti della potenza sessuale e della libido. È chiaro che sono campi sono particolarmente frequentati. Nel 2000-2006 sequestro di 1 milione di fiali illegali non conformi agli standard richiesti. Mercato di farmaci fasulli, 35 miliardi di dollari all'anno, ma nel 2010 sono diventati 75 miliardi di dollari. Farmaci fasulli comprati attraverso 75 miliardi di dollari, non so dire cosa fa. Poi ci sono delle istituzioni governative, tutte bene, che esistono, bisognerebbe denunciare, sono presenti, ma voi provate a trovare un numero verde aperto per la tutela del cittadino. Non lo trovate mai libero. Questo è uno spunto interessante. Un problema nell'anziano soprattutto è quello di avere 5, 6, 7, io ho pazienti con 14 medicine. Voi capite solo la follia, questo riguarda prevalentemente la nostra classe, la mia classe, perché non si può pensare che un anziano prenda 12 compresse al giorno. E se l'anziano fa parte di quel 30% sottoculturato, caperà ancora meno. Se è vedovo farà un casino della Madonna. E se no, prima o dopo il pasto, un quarto prima, mezzo dopo, la patata romena, non capite. Voi capite cosa succede. Allora, tutto questo non per divertire, ma per dirvi che effettivamente una maggiore consapevolezza, bisogna fare delle scelte. Se un farmaco è fatto per andare in coma diabetico e uno è fatto per guarire i cali, e io opto per quello del diabetico e quell'altro avrà un po' di mal di cali. Non possiamo a 70 anni curare tutte le magagne che abbiamo. Bene, allora una ditta indiana ha detto: perché non facciamo una polypill fatta di 5 farmaci, che sono questi, 3, anche perché di solito i problemi geriatrici sono colesterolo, ipertensione e problemi di ipercoagulabilità del sangue, rischio trombotico. Allora hanno fatto 5 farmaci, 5 attivi, che sono staclesidra, miterolizza, 3 farmaci antipertensivi, un anticolesterolo, una aspirinetta. L'obiettivo era ridurre del 50% il rischio di ictus. Se funzionasse, voi capite che una riduzione del 50%, presidente sempre lì che mi guarda, se diminuita del 50% il rischio è enorme, perché significa che su 100 uomini, 100 che morirebbero, 50 non muoiono più. Andiamo a vedere, presidente è andata via. I risultati di questo studio sono effetti collaterali sovrapponibili in quelli che prendevano i singoli preparati, nessuna interazione negativa tra i farmaci, che era un pericolo concettuale, benefici clinici comparabili, tranne che per colesterolo e pressione, sono più efficaci di agenti singoli perché consentono una modulazione fisiologica che nella polipil non ci può essere, risultati definiti incoraggianti. Le riserve però sono: la casistica è troppo scarsa, in pazienti indiani che hanno tutte altre abitudini, disponibilità farmaceutica, necessità di conferma non è mai stato confermato, 12 settimane per giudicare un periodo troppo corto in una patologia geriatrica che dura fino alla fine della vita, la sanità indiana è sui generis, impossibile modulare la dose del DIVA. In generale, a parte che in pazienti singoli il concetto di arrivare a un unico farmaco che abbia dentro tanti farmacini più piccoli non può essere applicato, se non individualmente, ma non come policy generale. Rifiuto delle vaccinazioni. È paradossale, ma questa è una zona in cui c'è particolare resistenza sia da quelli che non si dedicano, che non sono fautori delle medicine complementari e alternative, ma anche di quelli che non lo sono e sono contrari alle medicine. Sono robe che bisognerebbe dire più da codice penale che da considerazioni di tipo esistenziale. Allora, è scomparso o vistoso calo il vaccino indotto di vaiolo nel 79, è stato giudicato dall'OMS malattia dell'umanità scomparsa. Sembra che ci sia qualche fialetta in Russia e in America nell'eventualità di un terrorismo di tipo microbiologico per avere la possibilità di fare degli antidoti. Poi è molto calata la polio, tetano, difterite, epatite B e poi morbillo, pertosse e rosolia, che non sono obbligatorie le vaccinazioni ma sono facoltative. Resistenze sono soprattutto dei fattori delle medicine alternative per una serie di ragioni. Primo, ignoranza. Temuta tossicità diretta del tumor SAR, che non c'è più, era un mercuriale a bassissimo dosaggio, può darsi che era meglio non averlo, adesso non c'è più, e c'è il pericolo dell'autismo, hanno fatto anche dei film. L'autismo come conseguenza della vaccinazione, una grandissima bufala smentita da tutte le ricerche. La scarsa percezione soprattutto, perché l'ignoranza è una brutta erbaccia, la scarsa percezione della gravità di malattie che non si vedono più, perché se vedessimo nei 5 minuti uno con il vaiolo, uno con la poliomielite, saremmo più, ma non li vediamo più. Io mi ricordo quando ero all'elementare, alla scuola, al liceo, non c'era giorno che si passava per la strada senza vedere un poliomielite, la paralisi infantile. Adesso io non ricordo, negli ultimi 30 anni non ricordo di averne visto uno. Ho visto uno che era all'esito, era un direttore generale dell'ospedale. Ecco, invece queste malattie non le vediamo più noi, ma nel mondo ci sono in centinaia di milioni di persone. Ora, come si fa a non a obbligare, nella, per amore dei propri figli, per paura dell'autismo, impedire questo. Tenete conto che la non vaccinazione mette a rischio la popolazione normale, perché se uno si becca la malattia infettiva è un fattore enorme di contagiosità. Curiosità, fra le cose più giornalistiche che mediche, però con una valenza scientifica importante. I mancini, ma è vero che hanno un plus? Come ho sempre pensato io e che continuo a pensare, almeno a tennis. Allora, Ettore Frangipane ride, ma lui non destrima, ne ha poco da ridere. Mancini alla nascita, circa il 10%, e sono considerati persone con cervello rovesciato. Ma non rovesciato completamente, perché il centro di Broca, che per la formulazione teorica della parola parlata e scritta, ce l'hanno in tutti e due gli emisferi. Quindi teoricamente un mancino con una paralisi, con un ictus cerebrale, ha possibilità di conservare la parola molto più di un destrino. Bene, l'area cerebrale coinvolta in un atto è favorita nei mancini, per esempio fare una conferenza, un match tennistico è più ampio, ha una visione d'assieme maggiore interesse proprio alla visione d'assieme. I dettagli sono visti come una perdita di tempo, per cui si concede fare una gerarchia di valori nelle azioni che fanno, e questo probabilmente conta. Poi se andiamo a vedere la storia ci dice che grandi differenze non ci dovrebbero essere. È paradossale che questo plus, che effettivamente è dimostrato, si accompagni a un'accezione normale che alla parola sinistra dà sempre un'accezione negativa, anche prima di Berlusconi. Paradossale accezione comune, tiro mancino, sinistro presagio, sinistro automobilistico, la mano del diavolo per i cristiani è la sinistra. Per gli islamici è la mano destra, soprattutto perché è peccaminosa per l'igiene intima, la devianza, considerata una devianza da scienziati, un po' troppo frettolosa. Quindi l'accezione comune è negativa, mentre in realtà qualche cosa di più sembra che abbiano, a parte il centro di Broca. Però se andiamo a vedere, guardate i nomi celebri, politica e storia, li vedete tutti qua, arte e scienza con la celeberrima immagine di Andy Warhol, e nello sport. Allora vi segnalo che tanto non dovrebbe esserci, perché se dovesse avere un plus, qui abbiamo un premio Nobel per la pace più o meno giustificato, e abbiamo Bin Laden che invece è un premio anti-Nobel per la pace. Qui tutti quanti sono mancini e sono tutti... quello che ho incominciato è poco noto a voi, ma è ben noto a noi... È un signore che da quando è diventato over 45 è campione del mondo, di categoria di tutto il mondo, dei grandi, dei professionisti, dopo aver battuto biecamente Pietrangeli, che veniva sempre a Cervi Affari Nazionali, quando è comparso sto, che era un modesto A, ha vinto quello e ha vinto per decenni ancora. Arriviamo a qualche cosa di più incisivo. Sterilità maschile e stress. Come sempre le donne più colpevolizzate degli uomini, questa non è una novità mia, è una novità che sanno tutti, e infatti si dava sempre colpa alla donna della eventuale infertilità, che riguarda circa il 10-20% delle coppie, con adozioni in aumento. Responsabilità in realtà è al 50% nei due sessi, quindi può dipendere dall'ovulo e può dipendere da uno di questi animaletti che vanno dentro, ma uno soltanto avrà successo e gli altri resteranno in anticamera. Gli esami, da quando si sa che il 50% è l'uomo, gli esami per il numero di spermatozoi, la vitalità, la mobilità, la velocità sono aumentati di 10 volte, anche che c'è un business che non finisce più. Le cause sono tante: criptorchidismo, le infezioni croniche, traumi testicolari, però quello che è emerso sempre più importante è lo stress cronico, che nasce da un'ansia di prestazione, un'eiaculazione precoce, l'esame del liquido spermatico è imbarazzante, quindi è già fonte di stress che si aggiunge allo stress di essere non fertile, la vitalità degli spermatozoi è influenzata dal disagio, quindi l'esame che io faccio non lo faccio su una popolazione non stressata, lo faccio già su una popolazione stressata, il disagio causa a sua volta di stress e si crea un circolo chiuso. La dimostrazione che questo assunto è vero è che un'alta percentuale, ma significativa percentuale di sterilità, si è realizzata in giovanottoni di 20-25 anni, nei Marines americani durante il Vietnam. Un altro fenomeno che ciascuno di voi avrà sicuramente constatato più volte è che frequenti gravidanze si osservano in donne sterili dopo che hanno adottato. Adottano il figlio e restano incinte. Ho dei casi personali fra i miei collaboratori di questo genere. E poi subito la porta d'ingresso. visto che c'è questa infertilità, proviamo a dare il Viagra o simili a queste persone. È chiaro che l'industria, che ha già dei profitti enormi, se riesce a infilare il Viagra anche come indicazione a diventare meno sterili, cosa che non c'entra nulla, è chiaro che questa non è dimostrata, è plausibile che ci sia, ma l'evidenza è insufficiente. La strategia naturalmente è molto redditizia per le aziende che producono. Altro problema pratico, nel libro ci sono circa, non so, 200 argomenti, quindi non ho potuto che pescare su quelli che vi possono anche interessare o divertire di più. E sapete che è uno dei cancri più eradicabili definitivamente che abbiamo, è in testa come frequenza, ma anche il più curabile, il 70-80% può essere guarito definitivamente con una prevenzione adeguata. Quindi si tratta di vedere bene sto colon. Appendice, colon cieco, ascendente, trasverso, discendente, sima, retto. E allora, a questo punto, problema che mi sento porre in continuazione, ma dottor, non potrei fare la capsula, perché il tubo non mi piace. La capsula è una robina che si inghiotte, è una videocamera che gira a 360 gradi, che viene assunta per bocca, le dimensioni sono queste, vedete qui, queste sono le dimensioni trattenute tra le due falangi e la bocca che le sta per iniziare. Questa qui va giù, registra, adesso sempre più perfezionata, è nata per l'intestino tenue, poi diventata per l'esofago, ma insomma sostanzialmente la stessa cosa, e registra, gira, e tutti i tubi, tutta la parte di tubo gastrointestinale che viene percorso viene radiografato, viene telepreso e mandato a uno schermo che sta al di fuori del corpo del soggetto. Conclusione: i falsi negativi sono parecchi, li vedete qui, andiamo dal 36 al 26 di polipi o di cancri, che significa negativi, significa polipi o cancri non identificati. Questo fa aumentare il rischio, perché uno dice ho fatto l'esame e sono negativo e invece ce l'ha. Nel 13-23% dei soggetti che non hanno nulla viene valutato polipo o cancro una roba che non è polipo o cancro, per cui in questi soggetti sono falsi positivi, non ne avranno nessun vantaggio e vivranno in angoscia permanente perché sospettano di avere un tumore, e questo comporterà coloscopie e tutta una serie di altre cose. Quindi, poi non solo, ma la capsula, pur essendo perfezionata adesso, addirittura intelligente, si spegne quando arriva nello stomaco e si riaccende quando arriva nel colon per risparmiare la batteria. Poi bisogna recuperare le feci e poi va eliminata e costa 500 euro l'una. Allora, le biopsie sono impossibili con la capsula, i fallimenti nel 2-5%, la pulizia risulta, e se la pulizia è necessaria per la coloscopia o il crismopacco, immaginatevi quanto è necessaria per una capsula che gira, basta un velo di feci stratificato sulla parete e voi non vedete nulla. Costo elevato, non adatta per screening. L'uso ragionevole deve essere, non emotivo, non è detto che a qualcuno non serva per scopi specifici, ma pensarla come test di screening che ci fa eliminare la seccatura deve essere infilati nel sedere, non ci dà nessuna garanzia e quindi non va vista come un test di prevenzione. Sessualità negli animali e poi nell'Homo sapiens. Allora, abbiamo nella parte alta del naso 2 milioni di recettori olfattivi per centimetro quadro, immaginate. Animali sono molto sensibili ai ferormoni. E perché? Perché probabilmente nel disegno divino, perché ci crede, nel disegno selezionatore, perché non ci crede, è fatto per favorire la sopravvivenza della specie. Quindi a un certo punto, nella fase dell'estro, uno solitamente sono ferormoni da femmine che vanno a eccitare il maschio rendendolo idoneo o ricco di libido per accoppiamento, ma nei suini per esempio è l'opposto, è il maschio che manda odore alla femmina, la quale assume posizioni adatte alla penetrazione del maschio. Importanza inversamente proporzionale a livello evolutivo, tanto più saliamo di evoluzione tanto i ferormoni perdono di importanza. Oltretutto noi influenziamo questo col post barba, profumo deodorante, la crema idratante eccetera. Una molecola di ferormone, per dirvi la potenza nella bassa gerarchia biologica, la farfalla notturna, che è questa, che vedete indicata qui, una molecola di ferormone di femmina viene percepita dal maschio a 2 km di distanza. Se fate lo stesso rapporto dimensionale, è come se un uomo percepisse il profumo di donna, qui ho messo un film una recitazione fantastica di Al Pacino, a 200 km. quindi io sento l'odore della mia femmina a 200 gradi, sarebbe umano. Negli uomini, l'esistenza dubbia, vi ho detto, anche perché è profondamente, sicuramente presente più in alcuni individui che in altri, ruolo comunque diminuito a favore di intelligenza e creatività. L'uomo o la femmina conquista non soltanto per queste spruzzate di feromoni, ma perché è simpatica, intelligente, e l'uomo è creativo, eccetera. Vivace, stratagemmi pro accoppiamento sono diventati molto più sofisticati. L'innamoramento non c'è nel mondo animale, c'è nel mondo, quindi la sopravvivenza della specie passa attraverso fatti come l'innamoramento e robe di questo genere. Naturalmente l'industria non si tira indietro, ha venduto anche per anni, vende ancora un preparato che si chiama Copulin, estratto dal segreto vaginale, con un effetto assolutamente insignificante. Che qualche cosa, che qualche individuo sia particolarmente portato a questo, ce lo dice il buon Napoleone, che diceva: Josephine, sto tornando a casa, non lavarti per favore. Sessualità e paraplegia. Mi è capitato di ricevere una lettera commovente di un paraplegico cittadino quando ho pubblicato questo articoletto che trovate nel libro. Allora, per ricordarvi, paraplegia significa paralisi degli arti inferiori da una lesione del midollo spinale. In Italia non si sa, ma ci sono 100.000 paraplegici e tetraplegici meglio lesi, 1.000 nuovi casi hanno, 3 paraplegici ogni giorno. Corrispondono ai 3 morti sul lavoro che questo paese registra. Quindi ogni giorno 3 persone vanno incontro a lesioni midollari, o per incidente, o per infortunio, trauma sportivo, neuropatologia. La sessualità compromessa a seconda della sede di lesione. Il livello evidentemente importa perché c'è della regolazione. Bene, questo riguarda soprattutto la sessualità nel maschio, che per problemi di deficit erettivo, disturbi di eiaculazione, depressione e angoscia. Quando pensiamo a queste cose pensiamo sempre a quelli che fanno le sporcherie. Pensiamo che gente di 18 anni che ha invece una lesione midollare e che ha davanti a sé una vita di questo genere, che ha esigenze non soltanto psichiche, perché la libido non viene compromessa, ha esigenze psichiche, sessuali e esigenze anche familiari, sentimentali. Su questo interviene un vescovo di Prato, deceduto da poco, che mentre si assiste a un recente maggiore attenzione alle istituzioni, abbiamo le scale biodante sempre di più, accessi a dati al posto di scale, parcheggi, toilette console, uffici al pian terreno, però c'è una maggiore crescita, come il posto macchine che sempre di più con fatica, ma si sta affermando, almeno in Italia con molta fatica. La Chiesa che posizione ha avuto? Non tutto dico, perché questo è responsabilità soltanto di questo signore, che è il vescovo di Prato. Si chiamava Monsignor Carinelli, che rifiuta di sposare 2 credenti paraplegici che desiderano unirsi in matrimonio. Lui fa poi il divieto che prevede una loro vita sessuale, perché prevede una loro vita sessuale non normale e non a fini procreativi. Paraplegici credenti costretti quindi a sessualità al di fuori del matrimonio. Naturalmente la vita compensa le cose e un sacerdote cattolico ricco di Caritas sposa civilmente, fa da testimonio al matrimonio civile in chiesa di questi 2 ragazzi. Da notare che questa cosa, questa giustificazione è veramente non solo disumana ma speciosa, perché anche la donna dopo la menopausa non ha fini procreativi ma la sua sessualità è ammessa, e una giovane che ha l'isterectomia per un cancro dell'utero può fare la vita sessuale con suo compagno. Quindi sono cose che non hanno veramente, non è stato rimosso il vescovo, è morto. Sesso in rapporto all'età. Tanto per dire, cose che tutti sappiamo, ma siccome le statistiche sono difficili, ed emerge questo è un'intervista sulla rivista più seria che abbiamo al mondo, che è New England Journal of Medicine del 2009, intervistati 3.005 uomini, 1.150 donne. Allora, come vedete, 53, 64, 72, 75, arriviamo a fasi abbastanza avanzate. Bene, la sessualità non muore mai, perché anche tra i 75 e l'85 il 26% ha una vita sessuale degna, in questo nome compatibile con l'età. Questi si dimostrano i maschi un momentino più attivi e le femmine un po' meno, probabilmente anche perché il maschio è più egoista e le femmine sono più operate le cose, tengono su i figli, il nipote, quell'altro va a giocare alle carte. No. Impatto di fattori genetici, biologici, caratteriali, ambientali, culturali e psicoaffettivi. Statistiche, le cifre vanno prese nel mondo occidentale, sono sicuramente attendibili, pure in una popolazione polietnica come quella americana, ma in altre etnie è molto difficile. visitare una donna araba è impossibile. Di tutto dicendo, ancora che sia una visita ginecologica, come non si scopre, cioè, quindi immaginate di fare delle statistiche in ceti particolari, in etnie particolari o in religiosi. Provocatoria questione: si fa meno l'amore perché si invecchia o si invecchia perché si fa meno l'amore? Probabilmente tutte e due, però un fatto è certo, che a partire dai 35-40 anni il testosterone, le cellule che producono il testosterone producono meno testosterone, e le cellule che formano i recettori nel cervello per la libido, quello che fa venire la voglia di fare l'amore, sono calate. Quindi sicuramente il non farlo c'è, però anche c'è una ragione biologica: il desiderio fisiologicamente nella media, poi ci sono sempre i rocosi freddi della piatto ricco micifico, e allora Viagra, Levitra e Chalis 5, 10 e 24 sono le durate entro le quali dall'assunzione bisogna fare l'atto sessuale. Quindi questo margine ristretto, e questo quando c'è la certezza, e questo quando c'è il dubbio, più si sposta. Uso appropriato: benefici dimostrati non ironizzabili, perché ci sono situazioni come il diabete grave che veramente a un giovane gli fa fare una vita da vecchio. Quindi questo hanno risolto molte cose psicologiche per bene, coppie unite non per capriccio ma perché si vogliono bene, eccetera. Quando si fa un uso senza indicazione medica invece è sconsigliabile, ed è soprattutto il diseducativo che apprende un ragazzo di 18 anni semplicemente per essere più stanone. Ci sono effetti collaterali anche mortali, sottolineato FRE, da farmaco o da uso improprio, c'è il problema. È il farmaco che ha un effetto collaterale che uccide, o è l'uso improprio di questo farmaco? È come il vino, fa bene il vino, se bevo un bicchiere a pasto non mi fa male, se bevo 2-3 litri a pasto stesso vale per questo. Interessante è che questi decessi sono avvenuti sempre, soprattutto in America, sempre esuberante, dopo attività sessuale, e specialmente in relazioni non stabili. Quindi uno che fa la travaglia. Fattori di rischio cardiaci, fra l'altro, anche se sembrano sani, non sono escludibili, to cure, perché ci sono dei cardiopatici che risultano tali solo al prezzo di una coronarografia. L'elettrocardiogramma è bene, non hanno mai avuto nulla. È chiaro che questi sono a rischio se le coronarie sono basse, e quindi una prestazione cerebrale abnorme. Molta prudenza comunque se ci sono fatti ictus, angina pectoris o infarto nei 6 mesi precedenti, se la pressione è bassa, perché ricordatevi che questi farmaci abbassano la pressione e sono nati come farmaci cardioattivi, e l'effetto collaterale è stato quello di vedere che i cardioattivi non funzionavano ma il soggetto aveva l'erezione, e allora si è cambiato. Età avanzata, dosaggio improprio, concomitanza di altri farmaci, eccetera. E poi non illudersi che l'effetto sia proprio come viene reclamizzato. Mi soffermo sulla prostata perché, come la donna è maltrattata e penalizzata dal cancro del seno, che può comparire anche in età molto giovane, anche se per fortuna, come vedremo dopo, non si muore molto meno di cancro del seno, ma la prostata è invece la penalizzazione del maschio. Voi vedete che questa ghiandoletta messa qua, questa è la vescica, questa è la prostata, questi sono i canali che portano via il liquido spermatico, che attraverso la prostata raggiunge l'uretra e poi va fuori. Vedete che ha stretto contatto anche con il retto, per cui chi farà terapie prostatiche potrà avere problemi e vescicali e rettali, perché si tratta di organi molto vicini uno all'altro. Bene. Come cambiano le idee? I vecchi rapporti, le vecchie nozioni scientifiche, ma questo è tipico di una scienza seria che cambia se stessa quando c'è ragione di cambiarla e che non resta immobile nel tempo, come la terapia tradizionale cinese, variante coreana. La vecchia nozione era che più rapporti sessuali si avevano, maggiore era il rischio di cancro prostatico. E si metteva, la spiegazione era che maggiori rapporti con donne diverse si beccavano più infezioni, e le infezioni erano considerate una lesione precancerosa. La nuova documentazione, questo, è che l'eiaculato, secreto prostatico più spermatozoi, ha anche sostanze cancerogene, e quindi più uno elimina secreto l'eiaculato, più elimina, oltre che spermatozoi, anche i cancerogeni. Se tanto è vero, una grande attività sessuale dovrebbe avere un impatto favorevole sul cancro prostatico. E guardate qui, vi dicono cose, non di novella 2000, studi del National Cancer Institute e del Cancer Council Victoria, quindi istituzioni di cancro. Allora, con 21 eiaculazioni al mese, il rischio di cancro è il 70% più basso se confrontato con 4 volte al mese. 4 eiaculazioni alle settimane, rischio di cancro 33% di una volta alla settimana. Allora, questo significa probabilmente un invito a fare quello che la vita ci consente, biologicamente parlando, senza strafare, ma non vedere, non avere paura di prendersi delle malattie e semmai pensare che ci può essere una cosa positiva. Eiaculazione è vantaggiosa a prescindere dal rapporto omosessuale, eterosessuale, autoerotismo, eccetera. Tant'è vero, questa ve la faccio vedere perché quando ho avuto la notizia e l'ho riportata sono rimasto, non la sapevo veramente da restare. Allora, ci sono in America delle maratone masturbatorie, questo è il placato della maratona del 2008 mi pare in qualche parte, in cui il record maschile di masturbazione è durato 8 ore e mezza e questo ha vinto. Il record femminile, che pur non era prostata, quindi non era sicuramente in gioco una terapia preventiva, 6 ore e mezzo di masturbazione. Ora evidentemente qui siamo a fare con la psicopatologia pura, ma c'è anche questo nel nostro mondo. Dintorni orripilanti. Questo è veramente incredibile, ma voi a Bolzano avete osservato un caso, anche se non vi ricordavate, non sapevate che si chiamava così, DIBB, disturbo dell'identità dell'integrità biologica. Cos'è? È un, qui vedete Van Gogh, la sua orecchia, impulso a farsi amputare parti sane del corpo perché una parte del corpo è ritenuta insopportabile. È una deviazione vera, a prescindere da motivi assicurativi. Questo almeno non è di uno si va lì alla mano per pagare la pensione a vita, uno va per non andare militare. Parlo di automutilazione, spesso avviene, con sega, con ascia, messo con la gamba sotto il treno, spesso le cronache lo ricordano, l'avvocato qui presente ne conoscerà sicuramente dei casi, più spesso ricorso a terze persone. A Bolzano ci avete ricordato uno che si è fatto tagliarsi la gamba dal fratello. È il caso Cleo, per motivi assicurativi. Esattamente, ecco lì non rientravo, nella fattura ci sono anche. Allora, la rispiegazione psichiatrica è la solita, che vale quel che vale, ve la riporto: ha avuto una carenza infettiva nell'infanzia, ma io ho avuto tante carenze infettive nell'infanzia e non mi sono mai tagliato niente. Corpo sbagliato come nei trans. Il corpo sbagliato, il trans non si riconosce come tale, è il moncherino in chiave erotica. C'è un famoso romanzo breve di Ernest Hemingway in cui lui era contento di avere il moncherino perché la sua compagna si estasiava di fronte a questo moncherino. Poi ci sono interpretazioni non psichiatriche, neurologiche, e che si avvalgono di questo perché in alcuni casi è stato riscontrato, è la mancanza nel neonato della zona di corteccia che è deputata alla rappresentazione dell'alto. A me manca nella corteccia parietale destra la cellule che sono correlate con la rappresentazione del mio piede sinistro. Allora il mio piede sinistro io lo considero come una parte strana della mia vita. I problemi etico-giuridici, non ho la dottor Maria, sono questi. Richiesta di mutilazioni è ritenuta un diritto agli affetti di DIB perché è considerata simile alla richiesta di uno gestetico. Perché? Dice, tu ti fai tirare via il grasso delle mammelle, io mi faccio tirare via il piede, che differenza c'è? Per il giurista essenziale è che la decisione persista da anni, che non sia il capriccio perché ti ha mollato l'amico, e che il paziente sia ben informato delle conseguenze che ha. Esperti di bioetica ritengono inaccettabile la richiesta e sollecitano una cura, ma i pazienti con DIB non si considerano malati e rifiutano questa cura, ed è nel loro diritto rifiutare questa cura. A chi gli eventuali costi sanitari dell'amputazione, pensione di invalidità? Abbiamo un'esperta di pensione di invalidità qui in sala. Quindi sono problemi, a parte la rabbrividire di fronte a questo, che poi fanno sorgere dei problemi importanti in vari ambiti. Arriviamo al cancro del seno. Questa è una stranezza soprattutto americana, ma che non è solo americana. L'impatto di questo, vi dicevo, è il pandan del cancro della prostata nel maschio. Una donna su 10 sviluppa un cancro del seno nel corso della vita. La sopravvivenza media molto migliorata negli ultimi 20 anni, gente che ha avuto un cancro, 25 anni dopo, piena di metastasi, ma vive ancora, con una qualità di vita buona, ed è migliorata molto grazie a mammografia, ecografia e soprattutto a quadrantectomia, a cui si dice che ha dato un contributo abbastanza importante, Veronesi, ma non è del tutto vero. L'88%, prima due osservazioni strane, l'88% di 2000 donne con cancro del seno è indicazione semplicemente a una quadrantectomia, porto via 5 cm grosso modo di tessuto mammario, una cicatrice che manco si vede, e la dottoressa preferisce la mastectomia totale, preferisce l'ablazione chirurgica di tutti i due seni, sotto il profilo psichico ed estetico. 6.000 donne con cancro del seno dal 2003, ricorso a mastectomia non necessaria, salito dal 31 al 43%. Cioè, mentre è migliorata progressivamente la prognosi e le potenzialità terapeutiche, è migliorata parallelamente anche il rifiuto a queste migliorie consentite dalle ricerche scientifiche. Perché? L'impatto negativo della risonanza, se la risonanza che vede un po' di più dice che c'è un nodulino sospetto che probabilmente non ha nulla a che fare, spinge di più, dice ma nel dubbio me lo faccio. La superficiale decisione dei pazienti che guardano Dallas invece di informarsi e una scadente informazione del medico che dovrebbe essere sempre un po' più lungo nel far considerare i pro e i contro. Anche qui abbiamo Sloan Kettering Center di New York, uno dei principali. Altra cosa orripilante, vi ricordate che siamo nel gruppo delle cose orripilanti, è il destino degli albini in Africa. Uno su 3.000 nasce con pelle chiara e occhi azzurri. Hanno maggior rischio di tumori della pelle e maggior rischio di disturbi oculari, che succede anche per gli albini nostri. Ma quegli albini africani, il rischio è soprattutto quello di venire mutilati con asportazione di occhi, seni, arti, dita, capelli e genitali, perché nelle tradizioni negre, diciamo, delle popolazioni di colore, l'albino è portatore di fortuna, quindi i pescatori buttano nelle reti i testicoli degli albini, uno che si vuole sposare tira via gli occhi perché così avrà una ricchezza, eccetera. Commercializzati anche, non soltanto per loro, ma vengono commercializzati ad altre tribù per arricchire o per altri vantaggi. Il fischietto che vedete qui è messo perché è diventato un elemento salvavita per gli albini, perché sanno, cercano di abitare abbastanza vicino, si raccolgono in certi villaggi più vicini e quando uno viene aggredito per venire mutilato e massacrato, uno fischia col fischietto e si aiutano l'uno con l'altro. Quindi il fischietto è diventato un elemento salvavita e soprattutto l'Africa subsahariana che ha questo. Arriviamo ad alcuni rappresentanti della mia categoria. E anche qui il medico e l'avvocato sono chiamati in causa tutti e due. 2007 casi celebri, ve li sintetizzo solo. Professor Austori, urologo Milano, subisce 10 pistolettate, sembra che le pistolettate siano state mirate ai suoi genitali perché lui operava la gente per migliorare l'attività sessuale dei pazienti. Denuncia di concussione, il suo arresto 4 mesi dopo. Ti opero io il capo e presto, ma solo se mi paghi, in nero. Nel 2009, 6 anni e mezzo si becca di carcere più divieto di professione per 5 anni. E io mi domando in breve, ma perché per 5 anni? Se uno ha fatto cose che non doveva, ha tirato via cose che doveva, ha illuso, si è fatto pagare, no, perché deve esercitare ancora il procedimento. 2008, Santa Rita, vi ricordate, la clinica degli orrori, Milano, quindi non Lampedusa, Milano, truffa il sistema sanitario più lesioni gravissime, più 5 decessi. Omicidi per interventi non motivati a 85 pazienti, 4 i medici arrestati e i dirigenti. Guardate lo stipendio mensile medio degli amministrativi, medici, è passato con questa clinica dell'errore da 1.700 euro a 28.000 euro al mese, quindi c'è stato uno scarto enorme. Bene. Nel 2010, qui nel 2009, il primario, ho messo il nome e cognome perché si veda, Brega Massone, condanna a 15 anni e 6 mesi i due vice, che beccavano un po' meno, Pansera e Presici, 6 anni e 9 e 10 anni. Ora è chiaro che questo non è mala sanità, questa è delinquenza comune. Però contro questa delinquenza comune si usa una mano molto soft. Unglaublich, dice la diapositiva, altro caso che si correla con i precedenti, ci sono bombole che devono dare ossigeno e salvano la vita o migliorano la qualità di vita dei pazienti perché danno ossigeno, e invece di ossigeno a Castellaneta e a Siena danno azoto e della gente muore o sta da cani. Il dottor Neri denuncia all'amministrazione e trova soltanto che c'è un tentativo di insabbiare questo del dramma ai NAS. I NAS non vengono coinvolti dall'amministrazione. Viene riconosciuto pubblicamente quel merito di aver impedito altre morti? No, subisce mobbing sfrenato, taglio delle gomme dell'auto e anche minacce di morte, e se n'è dovuto andare. Il dottor Gaudiano denuncia, pensate questo, anche questo è allucinante, denuncia di grave spreco, cordoni ombelicali con relative cellule staminali già tipizzate per leucemia o talassemia, viene premiato con un avviso di garanzia e avviato un'iniziativa di licenziamento. Ora, questi cordoni ombelicali si mettono e si buttano nel cestino, invece no, vengono tipizzati, pronti per salvare uno con una leucemia acuta, che si possono salvare la leucemia acuta nell'80% dei casi, prima si moriva nel 90% dei casi. Bene, questo denuncia che è un assurdo, uno spreco, viene licenziato. Medicina e società. Questa sembra impossibile, ve la metto, ripresa dalle Scienze, grossa rivista, è la versione italiana di American Scientist, che è una rivista fatta solo da cervelloni degli Stati Uniti. Allora, noi sappiamo tutti che Gassana, tutti sanno tutto sugli OGM e sui Gassana, tutti parlano e non sanno niente, no? Perché è impossibile sapere qualcosa se non si è dei tecnici, il sottoscritto compreso. Gas sera all'anno 38 miliardi di tonnellate di CO2, a noi ci fa specie 38 miliardi di tonnellate, ma non sono in grado io, non siete in grado di valutare quant'è, ma sembra che sia tantino. Gas serra, progressivo incremento atmosferico, da auto e ciminiere, e questo lo pensiamo tutti. Scappamento, si vede, il verde che ti dice no, chiudete, mi scusi, lei non stia in folle, chiude la macchina, beh, giusto. Ma non pensiamo mai a quanto costano in termini di gas serra, cioè di produzione di CO2, gli alimenti, perché costano come allevamento, come coltivazione, trasporto, frigo e combustibili. Okay? Allora, se noi vedete questo elenco, 225 grammi del seguente alimento, lì equivalenti in CO2 e corrispondenti metri in auto. Voi vedete che per 2 etti e qualcosa di patate corrispondono a 59 CO2 e come fare 300 metri con la mano. Ma per far prima, se andiamo a una bella bistecca di bue di manzo, i CO2 equivalenti comportati da queste voci qui sono 3.360 e corrispondono a 18 km in automobile. Quindi anche quello che mangiamo deve farci un po' riflettere. Anche perché c'è sempre più nel mondo, questo lo dico a qualcuno che si occupa di queste cose, il presente, che le borse della sanità saranno sempre più strette e ci sarà sempre un tentativo di risparmiare di più. E allora ci si è posti il quesito, se io ti dico che ingrassare aumenta l'arteriosclerosi, aumenta l'ictus, cioè, se io ti dico che fumare ti viene il cancro, e tu continui a ingrassare, continui a fumare, quando ti viene la malattia te la paghi. Perché ti ho, da 30 anni, 40 anni, io società, ti ho avvisato che facendo così costerai molto la società. Allora, finché il piatto ricco c'è, ma quando il piatto ricco non c'è più. Allora, esempi. Pesante spesa sanitaria per patologie legate all'obesità. Texas e California, già oggi, e in questo momento stanno altri 10 stati allineando, genitori incriminati per obesità di figli. Questa Miss Gray, arrestata perché il figlio di 14 anni pesava 225 kg. Obesità di bambini viene paragonata ad abuso sui minori. Non c'è da scherzare, perché questa roba costa e si arriva. La pasticceremo l'italiana, ma ci si arriverà. Pesante spesa sanitaria, Inghilterra, sigarette, per patologie del fumo, rifiuto di interventi gratuiti in fumatori con cancro. C'è gente che a Bristol si è ricoverata per cancro al polmone e il risultato è che lui era fumatore da 20 anni, la campagna per il fumo in Inghilterra è cominciata la prima campagna e tutti i medici il giorno dopo hanno smesso di fumare, contrariamente ai medici italiani, dice, e 30 anni che ti hai visto venire qua ti paghi il tuo cancro del polmone. Discutibile o meno che sia, ma questo è un problema reale. Salute dei cittadini, allora per altrimenti i cittadini protestano, dice, intanto il diritto individuale si pone contro il diritto collettivo, ma noi abbiamo già delle violazioni, perché la quarantena è un diritto collettivo che prevale sul diritto individuale. La vaccinazione è un diritto collettivo che prevale sul diritto individuale, vaccinazione obbligatoria. E poi dicono, e con una certa ragione, vabbè, voi mi dite questo, ma perché lasciate che vendano prodotti ipercalorici come edulcoranti, roba, e perché lasciate che lo stesso Stato che mi dice di non fumare ha il monopolio delle sigarette e vende sigarette? E quindi questo è un contrasto effettivo. Due chicche, qualcuno l'avrà già visto in un'altra sede, ma perché è poco conosciuta questa, non parlo adesso di presupposti, ne ho parlato in città fino alla nausea, ma nessuno o pochi sanno che l'omeopatia ha cercato di diventare medicina ufficiale sotto Hitler. E voi avete qui il Rudolf Hess, che nell'agosto del 1937 partecipava, avviava, introduceva il 12° congresso internazionale di omeopatia in Berlino per esprimere l'interesse dello Stato nazionale socialista verso tutte le modalità terapeutiche, ma in particolare l'omeopatia. Cosa succede? Questo auspicio viene portato avanti in particolare da Hess, ma anche da altri, e nel 1936 comincia una sperimentazione su pressante invito del Führer su larga scala in Germania per dimostrare l'efficacia dell'omeopatia. Vi partecipa a questo studio controllato della Grosse Deutschland pure sto Fritz Donner, che è un omeopata convinto che pratica l'omeopatia e che è figlio di un omeopata. Nel 1939 i risultati sono così deludenti che Donner abbandona l'omeopatia già in quell'anno, ma nel 1939 era difficile fare a cazzotti con Adolf Hitler e sta zitto. Nel 1961, quindi un po' di anni dopo la fine della guerra, inizia un dossier che si riferisce a questo esperimento, che finisce appena nel 69, in Germania nessuno accetta la pubblicazione di questo documento. Il dossier viene pubblicato solo successivamente sulla rivista francese. Nel 95, finalmente, la prima pubblicazione in Germania in un giornale a bassa tiratura. Oggi il dossier integrale lo potete ricavare da questa cosa, l'ho portato anche nel libro, e viene. È interessante che anche oggi però il direttore Schöller, il chief editor dell'Allgemeine Homöopathische Zeitung, ha pregato molto, ha fatto pressioni perché questo dossier non venisse pubblicato, e siamo nel 1900, siamo 40 anni dopo la fine della guerra. Tanto male non fa. E allora vi devo mettere uno dei tre drammi regionali, gli altri due che non faccio vedere per brevità mi sono stati testimoniati per iscritto dal dottor Giorgio Radetti, che è l'aiuto pediatra dell'ospedale di Bolzano, grande endocrinologo, diventato da poco presidente della Società Nazionale di Endocrinologia Pediatrica. Voi non potete saperlo, ma perché un ospedaliero diventi presidente nazionale deve essere forte. Bene, lui me ne ha dato due casi identici, per cui vi faccio vedere uno per brevità. Questo ve lo ricordate perché è un dramma regionale. Alvise, bambino trentino di 6 anni con mucoviscidosi. La mucoviscidosi o fibrosi cistica pancreatica è una malattia genetica che colpisce il pancreas, che diventa pieno di bozze e influenza molto la digestione, la produzione di enzimi, ma la causa morte non è il pancreas, anche se il nome valorizza di più questo territorio, è la presenza di bronchiectasie gravi, diffusa a tutti i polmoni, con un continuo recidivare di bronchiti, infiammazione, per cui l'individuo si salva solo con cortisone e antibiotici. Bene, questo medico trentino sostituisce gli antibiotici, gli steroidi e il supporto, una volta morivano prima dell'età scolare, adesso si riesce a farli vivere abbastanza bene, fino a 18-20 anni, li sostituisce questi farmaci che non sono pilloline, antibiotici, steroidi, cura ayurvedica, i preparati ayurvedici sono venduti dalla moglie farmacista. Quindi non è che sono orientato, io vi dico le cose così come sono, dopo ciascuno di voi farà quello che crede. Infatti, prima è stato condannato per omicidio volontario, ma dopo un anno lo stesso signore viene condannato per omicidio volontario. Il problema è, sono passati 2 anni, il processo finirà quando? E quando finirà, questo bambino sarà già morto da 2 anni e con patteggiamento e magari 2 lire, sto medico continuerà a esercitare la medicina. Altra bufala, la storiella del naturale. E smettiamola con sto naturale che è tutto buono. Anche lo tsunami è naturale, anche il terremoto di giapponese è naturale. E allora vi faccio vedere questo, visto che siamo in zona, 4 tipi di amanite, tutte naturalissime, le troviamo fresche sotto le rame, e ti ammazzano in un secondo, la volete satana, abbiamo la vipera, il cobra, scorpione, vedova nera, qui non ce n'è, ma queste ce n'è, e abbiamo virus che sono naturali, batteri che sono naturali, le tossine che sono amici, funghi velenosi, e tutti, non sono altro che grandi bufale. perché il naturale di per sé non vuol dire assolutamente niente. È stato chiamato il naturale, è come dire tutte le direzioni. Tutte le direzioni, una ti può portare a Roma e una ti può portare a Stoccolma. Due diapole e poi finiamo sull'effetto placebo, qui una copertina splendida. Qui è un mio libro mai vecchio che ho visto però anche in biblioteca, c'è anche in biblioteca della signora Trevisan, e che vi fa dire la roba buona costa. Perché anche l'effetto placebo, che è una terapia non fatta di cose specifiche, risente del prezzo, secondo il grande detto popolare che la roba, lo diceva anche sempre mia mamma, è la roba buona costa. Allora, qui avete una splendida vignetta del qui presente Ettore Frangipane, che dà due barattoli esattamente uguali, e la donna dice, sono uguali? Mi dia quello che costa di più. Perché, ma lo dice con accanto un commento importante che ci arriva da uno dei più importanti giornali di clinici, di pratiche cliniche degli Stati Uniti, che è JAMA. 82 volontari sani, universitari che si facevano pagare per partecipare, che gli dice, se accetti di farti fare delle scosse dolorose sul polso, ti pago e ti do 30 euro per l'esperienza. Questi qui sono i militari, in Italia anche i militari, in America no. I volontari lo fanno. Allora, e gli dice che gli daranno però, per attenuare il dolore della scossa, gli daranno dei placebi. Uno costa 2 dollari, quindi come 2 euro e mezzo a compressa, e uno costa 0,10 euro a compressa, ma è lo stesso placebo. Bene, la scarica massima più algogena che c'è viene ridotta nell'80% di quelli che hanno preso quello che costava 2 euro e mezzo e nel 56% di quelli che costava, e non c'era dentro nulla. Quindi vuol dire che l'effetto placebo di per sé, anche se non è, ci dà già una guarigione nel 60% dei casi, ma se ho la percezione che costa molto, aumentiamo di un altro 30%. Se, qui c'è anche una questione di libido, se uno le piace, se è preso per essere a modo di spizzarisi. Problemi bioetici, e concludiamo con questa. Questo è un problema interessante, effettivamente avvenuto ovviamente. Un assassino che vuole laurearsi in medicina dovrebbe poi essere abilitato a esercitare? Quesito per il dottor Mario. Karolinska Institute, la signorina Svensson, il signor Svensson, scusate, si iscrive a medicina. Arrivano all'amministrazione delle lettere anonime e dice, guarda che quello lì è un neonazista, quindi doppiamente traditore, era svedese, da poco uscito dal carcere per omicidio. La notizia viene confermata dal Karolinska, che fa le ricerche e vede che questo è proprio stato un nazista. Il board è favorevole all'espulsione, ma manca il cavillo legale. E sono contrari i garantisti estremi, che sono sempre presenti. Il nazista, dice il garantismo, ha già pagato le sue colpe e ha quindi diritti pari a quelli degli altri. Ve lo dico solo come sta, non prendo posizione. Vi dico cosa è successo però. Si sono ricordati di Al Capone. E dice, noi non siamo per via legale, ma troviamo un qualche cosa che abbia commesso e lo seguiamo. La direttrice Erickson scopre che Svensson ha falsificato i documenti di iscrizione per non far vedere che lui era il nazista, ha modificato nome e cognome e ha taciuto la condanna. Al Capone docet, Svensson viene espulso dalla facoltà di medicina per falso e non per l'assassino commesso in passato. Conscio del dolo, Svensson scompare senza protestare. Qui non potrebbe venire perché non ha parlato di linguismo. Ultima delle ultime, il testamento biologico, che ha diviso e dividerà per 2500 anni, anche se il problema in realtà è una scelta semplice, rispettabile qualsiasi. Le due campane sono queste. Chi ritiene che la vita appartiene all'individuo ed è legittimo che ritenga così, e chi ritiene che la vita appartiene a Dio ed è legittimo così. Chi ritiene che la vita appartiene all'individuo pensa che lui solo può decidere come morire e non altri, perché lui è il proprietario di se stesso. La decisione quindi è individuale e nessuno è in posizione ad altri, lui non impone ad altri di fare la stessa cosa. Lui fa questo, si libera. Dall'altra parte, chi ritiene che la vita appartiene a Dio, solo Dio può decidere quando è la nostra ora. La decisione in questo caso però non è individuale, la norma va imposta a tutti e questa è una grande differenza. E allora, il caso Englaro ci dice che si è tradotto in pratica questo tipo di clivaggio. La Chiesa contraria allo stop nutrizionale di questa ragazza che per 18 anni in coma. Lasciamo parte di svolti medici, potrei annoiarmi. è stata definita questa decisione del padre decisione necrofila. Il papà Englaro è stato considerato un assassino, lo stop nutrizionale è stato paragonato all'eutanasia, la nutrizione, si afferma, non è terapia, la volontà del soggetto non conta niente perché la vita non è sua, la nutrizione deve essere obbligatoria per legge anche per i non credenti. Vi ricordo che Papa Giovanni ha rifiutato la gastrostomia nutrizionale e ha detto lasciatemi che vada dal Signore senza soffrire. Favorevoli invece rispetto alle decisioni antemortem dicono il rispetto è ineludibile dei diritti individuali. La vigilanza di chi decide deve essere vincente su tutto, non ci devono essere dubbi che sia la volontà di un altro, che sia sua, questo è pacifico. Non si tratta in questo caso di eutanasia, ma di amore, di caritas. Nutrizione artificiale non è naturale, perché se si chiama artificiale vuol dire che non è naturale. È una macchina che ti mette dentro, è uno stomaco che ti punge la parete e ti fa mettere con un imbuto una miscela di aghe, rifiutata anche da Papa Calovidia. Nutrizione non è terapia, i credenti sono liberi di decidere diversamente e non devono accodarsi qui. Quindi sono due posizioni legittime, ma devono essere chiare. Non si può essere carne o pesce e non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Questa è la penultima. E che ho ripreso pari pari, virgolettato, da Stefania Rodella, che è una che lavora all'Agenzia Regionale della Sanità Toscana, che lavora molto bene salvo che per le medicine alternative che sono assatanate. L'assistenza sanitaria, dice, è un'impresa, e richiama un po' quello che diceva la signora Trevisan prima, l'assistenza sanitaria è un'impresa scientifica e morale, ma non commerciale. Medici e infermieri non vendono un prodotto, non hanno come interlocutore un cliente che ha gli strumenti per difendersi ed è in grado di fare scelte razionali. Per seguire l'efficienza è necessario, ma tagliare soltanto i costi in sanità non produce efficienza e certamente non migliora le cure ai pazienti. È la dimensione etica degli individui l'elemento essenziale per il successo del sistema. Io domani, credo che uscirà domani, pubblico, a prescindere da questo, un articolo sul tema per differenziare le dimissioni precoci dalle dimissioni premature. Dimissione precoce è sacrosanto, anche perché l'individuo torna nel suo ambiente, ma la dimissione precoce significa che avrebbe dovuto stare di più e non ci sta per motivi che non sono sanitari, e questo non mi va bene. Per concludere, un aforisma in sintonia con lo spirito del libro, e se mi consente anche la signora Trevisan, perché diceva questo nella intervista a Marco Rizza, il mezzo per non cambiare è non pensare. Io vorrei inviterei a non commettere questo errore, ricordandomi anche un proverbio triestino popolare che pensar fa mal de schienas. Io sono qui naturalmente se volete chiedere. C'è qualche domanda? Ho visto prima due parole, caviglia e... Sì, sì, è un test troppo complicato per gli altri. Si misura la pressione sul braccio, sulla caviglia si può dedurre dalla differenza pressoria in questi due distretti sia un elemento di valutazione emodinamica. È una roba troppo tecnica. L'importante è che tu puoi... È per l'obesità. No, è per l'efficienza cardiaca... Ti può dare informazioni di tipo mutilato. Lei ha detto, cioè se lo dice lei, lo dicono i fascisti, perché la propaganda fascista, diciamo la chiave, prendere provvedimenti, no? Tipo tubetti e roba del genere per evitare certe forme di morte, dicono non è terapia, ed è vero, perché non è terapia, sono lesioni colpose gravissime punite dal codice penale, perché quando io corro il rischio di ridurre uno in uno stato vegetativo permanente commetto un delitto nei confronti di quella persona. Ora se io metto una Englaro, ma anche un collega suo per esempio qui di Bolzano, no? Che sono 12 o 15 anni che è in un letto, ma se lo riduco in quella maniera lì, queste sono lesioni gravissime, non è dire è una terapia, non è una terapia, è un delitto che si fa. Allora ringrazio per l'intervento. Io ho voluto essere asettico. Ha fatto benissimo. Poi ciascuno si assume le sue responsabilità. È chiaro che io sono d'accordo. Però il punto centrale mi pare che sia questo. Al di fuori di ogni cosa, deve essere assolutamente dimostrata la volontà, rispettata la volontà del paziente. Oh, e questo è l'articolo 32 della Costituzione. Quello che mi pare più inaccettabile della posizione teistica, diciamo, è che questo venga imposto anche a chi non è d'accordo. Io non sono d'accordo che quello che penso io deve essere imposto a lei. No. E quella è la cosa più grave, al di là del fatto che quello che ha detto lei corrisponde al vero, perché vi assicuro che voi non avete visto, voi avete visto l'immagine dell'Englaro solo quando era 18 anni, il papà voi non avete visto l'immagine dell'Englaro quando era nel letto, esatto. Era Buchenwald, le immagini di Buchenwald così con sto pelo del pub messo sulle ambe, andava. Ma il grave è che se tu sei convinto, io non violenterei mai nessuno a fare, se tu sei convinto, guarda, te lo fai, ma perché mi devi impedire a me di avere un'altra decisione? Questa è la cosa più grave, per questo viola un diritto fondamentale di tutti noi. L'intelligenza di cui. Poi non si sa, si sa benissimo, che, perché questa è la verità, si sa benissimo che l'interruzione di terapia viene fatta regolarmente nei reparti di rianimazione. Esatto. Perché quando hai un giovane di 24 anni che ha avuto un trauma, che tu lo puoi salvare, e hai uno che sta 15 anni lì, che ha 79 anni, ha avuto due tumori cerebrali, e tu stacchi la spina e salvi il giovane. Lo si fa tacitamente sempre. Quindi questa continua ipocrisia sociale. Noi, la società non riesce a evitare di essere ambigua e di essere falsa. Meglio sempre di più l'ipocrisia. No? E un'altra cosa a proposito dell'eutanasia, guardi che nel codice penale fascista, tuttora in vigore, codice Rocco, l'articolo 579 è una condanna da 6 a 15 anni per l'eutanasia. Però non si fa la parola eutanasia, si dice omicidio del consenziente. Però lo stesso codice dice che se io dispongo di un diritto, non faccio niente di male se questo diritto lo trasferisco a un'altra persona. Allora c'è una contraddizione, perché da una parte io ti dico sì, ti regalo questa roba qui perché è mia e tu nessuno può denunciarti per furto, perché io dispongo del diritto di proprietà. No, capito. Quella cosa, no? Ma invece io non posso fare disposizioni sulla mia vita perché io non ho diritto alla mia vita, perché per i fascisti non avevo diritto, perché appunto lì si dice Dio ha diritto di disporre della vita delle persone. I fascisti dicevano Benito Mussolini al posto di Dio, perché più o meno era la stessa cosa. Ciascuno fa le sue scelte. Ecco, e oggi si continua ad andare avanti con quella scelta. Credo che lei dica, chiedo in aiuto al dottor Maio, non conosco questi. Credo di non concordare neanche con la falange del mio mignolo. Non si può paragonare l'eutanasia all'omicidio del consenziente. Scusa, è la stessa cosa, se vuole ne parliamo tre ore. Ne parliamo. Però credo che. Perché guardi che sia. Se lei prende i trattati di diritto penale, dicono. Me ne occupo un po', non pretendo di. Anch'io. Me ne occupano una ventina d'anni, quindi lei da. Beh, io un po' di tempo, per carità. Però l'omicidio del consenziente è diverso dalla buona morte, che dipende sempre da uno stato di salute del paziente. Io credo che la risposta, ma rubo un minuto perché il professore è il protagonista e io non voglio. Non voglio neppure fare la sponda del biliardo. Ma figurati. Però credo che la risposta a queste domande, che sono lecite e intelligenti, sia già nel nostro ordinamento. Perché il nostro ordinamento distingue tra atti disponibili e atti indisponibili. Qui non stiamo parlando di un diritto di proprietà, di un ettaro di terreno, stiamo parlando della mia vita e della mia integrità. Allora, il nostro ordinamento ritiene già che sia un diritto disponibile quello che riguarda, ad esempio, la donazione di un rene o la donazione del midollo o della comunque rinuncia a un qualche cosa che non compromette definitivamente il mio globale stato di integrità. Allo stesso modo si può risolvere il problema dell'Englaro. Valutiamo qual è il valore al quale si rinuncia nel momento in cui una persona è in stato vegetativo. È il valore vita globalmente inteso come valore salute globale della persona? No, è una frazione residuale di questo diritto. E quindi, proprio perché residuale, è un diritto rinunciabile. Diverso il caso di chi sia nel pieno della del proprio vigore, della propria salute, che chieda per un qualche motivo, che può dipendere da un suo consenso viziato, al terzo di ucciderlo, per un motivo che può essere assicurativo, di qualsiasi diverso, una patologia criptica e difficilmente accertabile. Con che diritto questa persona dice, ma me l'ha detto, l'ho ammazzato, me l'ha detto, era un diritto suo, era la vita sua. E con che diritto questa persona ha accertato se quel consenso fosse un consenso valido o viziato? Sono effettivamente cose in questo senso bisogna distinguere tra un'eutanasia di una persona destinata a morire tra mille sofferenze e una persona che per capriccio, per vendetta, per follia, per chiede di essere uccisa. Credo che la differenza sia patente. Mi pare che sia... Guardi, io naturalmente per rispondere a lei impiegherei almeno tre quarti d'ora e non voglio naturalmente e posso contestare parola per parola quello che lei ha detto, però io chiedo alla dottoressa Trevisan se è disposta ad ospitare una conferenza su questo argomento qua e io ci sto a darle tutte le spiegazioni come in democrazia siamo in tanto, perché guardi che in Europa siamo gli unici noi a essere i fanalini, siccome siamo in tanti. C'è solo lei. Allora in democrazia si rispetta tutti. Grazie. È la parola del dottor Brillo. No, grazie. No, volevo solo dire che il problema è un problema abbastanza immediato. Poco tempo prima delle decisioni, ridecisioni, c'era stata, se vi ricordate, due casi, uno lo ricordo meglio, di una signora che con cancrena al piede ha rifiutato l'amputazione del piede. Allora è venuto sul discorso. Come? Accetto che uno rifiuta la rimozione del piede e non accetta, ma ribadisco il concetto fondamentale che si allinea con già Marco, è questo. È chiaro che un terreno minatissimo in cui l'opinione espresso dalla persona deve essere acclarato, ma veramente oltre ogni ragionevole dubbio, perché uno può cambiare quello che diceva vent'anni fa, ci possono essere interessi ereditari, quindi capisco che da un punto di vista anche medico-legale, cioè uno dice vabbè, Moro mi resta il terreno in Corsica, e quindi ci sono anche quelle, l'umanità, se ci sono le maratone masturbatorie, c'è anche quello che farà uccidere la moglie. Io non vado a dirvi altro, sono qui. Grazie.